A bordo campo di Dario Ricci. Beh, puntata particolare questa di oggi qui a Radio 24 di A Bordo Campo, perché parliamo di due ruote, ma parliamo anche di due gambe che dovranno sostenere una bella fatica da qui a poco, perché 15 aprile maratona di Milano, 8 aprile invece inizia il moto mondiale. Andrea Dovizioso, uno dei centauri italiani più famosi nella moto GP, intanto benvenuto qui a Radio 24 A Bordo Campo. Ciao, ciao a tutti, grazie mille. Senti, toglici subito questa curiosità, Andrea. Che ti spaventa di più, il moto mondiale alle porte o l'impegno nella maratona di Milano di cui adesso andiamo a parlare? Beh, sinceramente è difficile da scegliere, perché il moto mondiale è molto complicato con i valori in campo che ci sono, ma partecipare a questa maratona, essendo la mia prima, mi preoccupa un po', quindi di fatica se ne fa veramente tante, però ho scelto di fare quella da 7 km, quindi me la caverò abbastanza bene. Ah, vabbè, allora è una passeggiata quasi sul tapirulan. Spieghiamo perché Andrea sarà protagonista della maratona di Milano in staffetta. Perché? Perché sarà uno degli sportivi coinvolti dalla Fondazione Laureus Italia nella iniziativa appunto della maratona in staffetta, con scopi benefici per sostenere chiaramente la Fondazione Laureus, che è una delle fondazioni più attive nel campo dello sport e della solidarietà. Ecco, come ti stai preparando, Andrea, a questa sfida? Ma diciamo che io faccio tanta preparazione a priori, perché mi piace, ci tengo molto a fare la preparazione per essere a posto in moto, ma un po' per far tutto. Io amo tutti i tipi di sport, e quindi quando mi è stata proposta questa maratona, anche se non ho esperienza, la faccio con molto volentieri, e soprattutto è una gara, ma è per beneficenza, quindi si fa ancora più volentieri, e poi logicamente si cercherà di fare anche un buon tempo. Non partecipo solo per essere lì, ma anche per dare il mio meglio. Vediamo un attimo come sarà. Allora, saliamo subito in moto nello sport che ti è più congeniale. Quest'anno avventura in sella alla Yamaha Tech 3, la scuderia. Senti, c'è un po' di rimpianto per non aver sfondato in casa Honda. Poteva essere quella la grande occasione, o è più forte la voglia di rivincita? No, assolutamente. Ho scelto di andare a Tech 3 e sposare questo obiettivo di far bene Yamaha, perché in Honda potevo continuare a rimanerci sempre con una moto molto competitiva, però a questi livelli bisogna avere tutto per cercare di vincere. Quindi diciamo Honda ha puntato su Casey e Dani, di conseguenza non c'era motivazione per me di rimanere. Di conseguenza ho preso questa situazione perché ci credo molto. Penso che Yamaha si può fare molto bene, e gli ultimi test in Malesia ci hanno dato ragione come un buon inizio. Logicamente le gare sono è un'altra situazione, però sono molto contento, mi trovo bene. Logicamente non basta, però partire da davanti era fondamentale, e nonostante la mia frattura alla clavicola abbia fatto un buon lavoro. Ti chiedo anche, l'avere comunque in casa un ex campione del mondo e altro campione in ascesa come Jorge Lorenzo, che tipo di riferimenti dal punto di vista tecnico ti dà, guidando appunto una moto completamente diversa da quella che avevi lo scorso anno? Sì, esatto, è una moto molto molto molto molto diversa, mi viene da dire proprio opposta dalla moto che ho guidato per tutti questi anni. Quindi a parte che Lorenzo è un campione ed è iperveloce, è il pilota che riesce in questi anni, è riuscito a sfruttarla al meglio, di conseguenza è il pilota da studiare per cercare di capire come è meglio guidare la Yamaha, perché uno può arrivare con uno stile giusto, ma si deve adattare alla moto che ha. Quindi il lavoro che ho fatto, il primo test in Malesia, nonostante avessi la clavicola rotta, non avevo forza, è stato di cercare di capire il più possibile che cosa dovevo cambiare, e infatti nel secondo test, quando ho avuto la possibilità di spingere di più, i tempi sono venuti, perché mi sono adattato, ancora non al 100%, e questo mi rende ancora più tranquillo, nel senso che c'è margine e comunque ce ne vuole, perché là davanti ci danno un gran gas tutti. Ti aspettavi invece anche quest'anno queste sofferenze del binomio Ducati-Valentino Rossi? Sinceramente mi aspettavo che non migliorassero così tanto da stare là davanti, perché erano troppo indietro l'anno scorso. Però secondo me hanno migliorato, in gara, che è una situazione diversa, saranno più vicini di prima, anche se non competitivi per giocarsi il campionato. Poi bisognerà vedere come va la stagione, come parte la stagione, perché solo in gara si capisce veramente i livelli in campo che ci sono. Il problema per loro è che in questo momento c'è anche un livello veramente alto di tanti piloti giovani, talentuosi, con tutti molto buoni. Di conseguenza, riuscire a ridurre il gap che hanno è più complicato di altri momenti, di altre situazioni, diciamo. Sarà pure quella che sta per iniziare la prima stagione senza Marco Simoncelli, che era per te un rivale agguerrito e acerrimo in pista. Qual è l'eredità che Marco lascia al motomondiale, e aumentano le responsabilità per un giovane pilota talentuoso italiano come te nel rappresentare proprio il nostro paese in pista? La relazione che c'era tra me e Marco e la rivalità che c'è stata tra me e Marco è stata la vera rivalità, cioè noi, avendo un anno di differenza, abbiamo fatto tutti i campionati insieme, siamo sempre stati tra i piloti che hanno vinto più di tutto, quindi ci siamo sempre scornati molto, essendo due caratteri molto diversi, diciamo non siamo mai stati amici, ma c'è sempre stato molto rispetto, perché indipendentemente dal carattere siamo due buoni, lui era un buono come io sono un buono, quindi c'è sempre stato rispetto da questo punto di vista. Quindi quello che è successo mi fa vedere la mia vita, o quello che faceva lui, comunque la mia vita, in un modo un pochettino diverso da prima, perché ti fa capire la vita, che cosa ti può capitare nella vita indipendentemente da quello che fai. Quando succedono queste situazioni pensi di più, valuti anche quello che faceva lui, e secondo me è piaciuto a tanti, perché era molto solare, piaceva a tante persone, perché era genuino, e nel nostro mondo non ce ne sono tantissimi, quindi capire che cosa faceva, perché lo faceva, mi fa vedere la vita in un modo un po' migliore, secondo me. Ti senti anche più addosso la responsabilità di rappresentare il motociclismo italiano, te e Valentino Rossi, di fatto, a partire da quest'anno? Là davanti ci siamo io e Valentino, anche se ci sono altri italiani quest'anno. Tutto gira intorno a Valentino, come ben sappiamo, però lui sta passando una situazione da 2 anni un po' particolare. Sì, sicuramente c'è più pressione, ma la mia pressione è per ottenere gli obiettivi che mi sono predisposto tot anni fa, quindi la pressione me la metto io a priori, perché ho degli obiettivi importanti di risultati nella mia vita. Ti chiedo invece, in termini di discorso sicurezza, molto è stato fatto in questi ultimi anni, quali sono invece i passi ancora da compiere per il moto mondiale? E da quest'anno avete nella squadra che si occupa della vostra safety anche un ex numero uno come Loris Capirossi. Ma nella sicurezza si è fatto tanto, quindi io sono contento di tutto il lavoro che è stato fatto. Non basta mai, e si può sempre fare meglio, ma purtroppo, tipo quello che è successo a Marco, ci sono certe situazioni che nelle moto non puoi risolvere. Di conseguenza bisogna continuare a lavorare, è buono che è una situazione giusta e intelligente avere Loris in questo lavoro, perché lui ha smesso di correre adesso, quindi sa esattamente qual è la reale situazione, e ci lavoreremo. Come tutti i weekend ci troviamo nella Safety Commission per parlare di questo e cerchiamo di fare il meglio. Preoccupato per la situazione economica del moto mondiale, inevitabile che la crisi si faccia sentire da tutte le parti e soprattutto nel mondo dei motori, ma ad esempio questa apertura alle moto CRT per rimpolpare la griglia di partenza non è un segnale preoccupante da questo punto di vista? Ma assolutamente, ma non c'era bisogno delle CRT per capire che la situazione è molto critica. Purtroppo ci troviamo in questa situazione, come forse tutto il mondo. A livello di CRT io non sono tanto contrario come tanti piloti, come alcuni piloti dicono. Non mi preoccupa la CRT, quello che mi preoccupa è che si decida al più presto un regolamento uguale per tutti. Al di fuori della moto, ma ti chiedo, come pilota, cosa senti che ti manca ancora per giocartela alla pari con un Casey Stoner? Io ho delle caratteristiche, sono molto costante, sono sempre tra i primi, ma il salto finale per dire la mia e fare strategie, cioè essere veloci quanto loro per fare strategie anch'io, ancora non mi sono trovato. Sono riuscito a fare un bellissimo campionato l'anno scorso, arrivando terzo, però non sono mai stato in condizione di essere in qualche gara più veloce di loro, come loro si sono trovati durante la stagione, quindi vincere qualche gara e cercare di stare sempre là davanti a Poggio nelle altre gare. Mi manca questa piccola differenza, che però fa la differenza in funzione del campionato. E allora Andrea Dovizioso, in bocca al lupo per il MotoGP che è ormai alle porte, grazie per essere stato ospite di A Bordo Campo e di Radio 24 e soprattutto, consentimelo Andrea, in bocca al lupo anche per questa maratona di Milano. Soprattutto, grazie mille, crepi. A Bordo Campo. Motori protagonisti oggi a bordo campo e non è certo la prima volta, ma è invece la prima volta che possiamo ospitare il general manager di un team motoristico tutto nuovo, impegnato nel mondiale rally e nel mondiale enduro di moto. Benvenuto a bordo campo a Renato Ferrari, general manager del team Bordoni Ferrari. Benvenuto dottor Ferrari. Grazie per il benvenuto, saluto gli ascoltatori. Allora, dottor Ferrari, ci spieghi subito come nasce questa sfida di questo team tutto nuovo? Sì, diciamo che la scintilla iniziale è stata il coniugarsi della mia passione per questo tipo di discipline con l'incontro con Nicoletta Elisa Altieri Bordone, che è la nipote di un costruttore di moto durante le due guerre, milanese. Il quale, scoprendo appunto che realizzava queste moto con grande passione e molto affascinanti, ma anche dei motocarri, quindi l'inventore del motocarro a tre ruote, nel nostro incontro è scaturita l'idea di, come dire, di riportare questo nome glorioso che è Bordone, diciamo, all'attualità, e quindi ci siamo cimentati inizialmente con questo con questi team sportivi. Motore primo di questa avventura è la Dakar, no? In tutte le sue possibili declinazioni, fino a quella che è stata la recentissima avventura 2012. C'è anche alla base quella che è stata un'amicizia davvero particolare e forte, la sua con Fabrizio Meoni, uno dei grandi interpreti della Dakar, centauro che dalla Dakar purtroppo è stato inghiottito, vero? Sì, diciamo che questo personaggio, Fabrizio Meoni, è stato un caposaldo per queste discipline dei rally africani, queste, diciamo, gare e anche avventure straordinarie ed estreme, di cui ho avuto la fortuna e l'opportunità di essere amico nei suoi ultimi anni di vita, e che mi ha permesso, attraverso i viaggi svolti insieme in Africa, di poter apprezzare non solo le doti del grande campione, del grande professionista, ma anche le doti umane. E quindi, diciamo, da questa etica, ispirati da questo grande personaggio, che di cui gli appassionati hanno viva memoria anche oggi a distanza di 6 anni della scomparsa, ci siamo ispirati in questa avventura dove l'evento sportivo principe è appunto quello della Parigi-Dakar, che oggi non si svolge più nell'intera comunità africana, ma in America centrale, è l'esempio più importante. Ma ci confessi, le piace questa Dakar sudamericana? Oppure, come l'Africa, malgrado i pericoli, i rischi, non ce n'è? Devo dire che effettivamente è una gara molto diversa da quella che erano quelle svolte in Africa, perché quelle africane avevano al loro interno il rischio anche della quella componente d'avventura determinata dal fatto di perdersi qualora la navigazione non fosse stata corretta, il fatto di viaggiare sempre costantemente da solo in questi deserti, in queste savane sconfinate, mentre oggi questa gara è sicuramente cambiata, di fatto si viaggia all'interno di un canale elettronico determinato, qualora si riesca a stare su questa pista elettronica dai sistemi GPS, che vanno scoperti, punti che appunto vanno rintracciati durante il percorso, e comunque si è abbastanza contornati da popolazioni che accolgono in modo molto entusiasta, diciamo, i partecipanti, e quindi non è più una gara in un mondo, come dire, ostile, in una natura ostile, bensì pur mantenendo, diciamo, le grandi difficoltà tecniche e impegnative sia per i piloti che per i motori, ha perso, diciamo, quella componente di rischio e di solitudine, ecco. Le chiedo ancora, dottor Ferrari, momento di congiuntura economica certo non felicissimo per affrontare una sfida in settori così particolari anche del sport motoristico come il rally e l'enduro. In soldoni, ma chi ve l'ha fatto fare e quanto vi costa questo scherzetto? Questo momento di congiuntura ci ha dato come una sorta di spinta, intanto perché sia per questioni anagrafiche siamo in condizione, come dire, di tirare di bilancio la nostra esistenza, e visto che possiamo, grazie a Dio, dedicarci alle cose che più ci piacciono, e queste sono le cose che ci piacciono. E congiuntura, anche noi siamo vittime della congiuntura, perché il nostro usuale business era legato all'immobiliare o anche all'industriale, e proprio in un momento in cui questi due settori hanno creato dei grossi problemi, hanno fatto sì che abbiamo spostato i nostri interessi proprio di business su un settore che è legato all'industria di tipo motociclistica, che ha comunque, essendo comunque di nicchia, un mercato planetario che non è quindi localizzato come l'immobiliare in Italia. Perciò paradossalmente quello che sembrava, come dire, una distrazione, un investimento a fondo perso, in realtà si sta rivelando un'opportunità di lavoro estremamente interessante. C'è ancora un legame forte, così come ad esempio era negli anni Ottanta, no? Quando le grandi case si battagliavano sulle piste di rally, e quindi c'era una propagazione del marchio notevole, oppure è diventata un'attività sempre più di settore? Ma diciamo che comunque il nesso tra evento sportivo e successo su di questo e business c'è. Non è così, come dire, condizionato come lo era in epoca passata, e infatti noi abbiamo verificato durante questa esperienza più che altro l'importanza, come avevamo già chiaro nella nostra mente, di affermare piuttosto un brand che è appunto Bordone Ferrari, ovvero BF in modo contratto, che sottende una serie di valori che sono spiccatamente italiani, quelli della creatività, dell'estetica, di una certa etica anche di affrontare non solo l'evento sportivo, quindi portare tutti questi valori sul business e valorizzato attraverso il nostro marchio. E allora Renato Ferrari, General Manager del team Bordone Ferrari, in bocca al lupo per i mondiali rally ed enduro che vi aspettano, e la lascio con un'ultima domanda chiedendole: so che avete un team in entrambi le discipline fatto di piloti giovanissimi, di giovani promesse, beh, si sbilanci, ci faccia due nomi da segnalare, uno per l'enduro e uno per il rally, all'attenzione degli appassionati. Beh, direi per i rally farei il tifo per il nostro Alessandro Botturi, che in brevissimo tempo ha dimostrato di poter passare da una disciplina che l'enduro ai rally con grande capacità e velocità. Per quello che riguarda l'enduro, direi i nomi sono tutti e tre, perché abbiamo tre piloti che sono straordinari e che hanno ricevuto, diciamo, una carica di entusiasmo dal nostro team, che hanno colto con grande simpatia data anche la loro giovane età, e quindi direi comunque forza Oldrati, forza Manzi e forza D'Ambrosio. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo mail abordocampo@radio24.it, potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina internet. L'appuntamento è per domenica prossima, come d'abitudine alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.